Letture di Radio 24. L'occupazione del Teatro Valle da parte di alcuni lavoratori dello spettacolo nasconde il desiderio di compensare con i fondi dello Stato le carenze qualitative della nostra produzione culturale. Che la trincea della nuova Resistenza debba passare per il foyer di un prestigioso teatro romano appare molto discutibile. Ed è discutibile che il Teatro Valle sia equiparato simbolicamente al nuovo palazzo d'inverno da espugnare nel nome della cultura derisa e calpestata. Qualcuno, tra i valorosi partigiani del Valle, sostiene che la cultura è come l'acqua, un bene naturale e inalienabile. Chissà. Ma chissà se l'analogia con l'acqua non serva a giustificare attraverso un'immagine suggestiva la banale richiesta di aprire altri rubinetti, quello delle sovvenzioni dello Stato. E non c'è bisogno di essere tanto severi come Goffredo Fofi, il quale, in una poi contestatissima intervista all'Unità, ha accusato chi occupa da settimane il Teatro Valle di rivendicare elemosine di Stato, oggi meno cospicue per via dei tagli ai fondi statali. Elemosina è esagerato, sebbene Fofi, temprato da una lunga militanza politica e culturale, di minoranza critica e irriverente, conosca bene una certa attitudine nel ceto dei colti a usufruire delle generose elargizioni pubbliche. Ma l'idea di associare la sopravvivenza stessa della cultura a livello di aiuti di Stato da destinare al settore culturale, in senso lato, è un tuffo indietro nello statalismo dirigista più pervasivo. È un'idea pericolosa perché collega la vitalità creativa al volere capriccioso del mecenate di Stato. È un'idea autoconsolatoria perché attribuisce alla mancanza di generosità dello Stato padrone lo stato non proprio brillante della nostra produzione culturale. Ma davvero il cinema, il teatro, la lirica, l'editoria possono rinascere a nuova vita se la munificenza di Stato fosse meno sparagnina? E quindi, sacrosanta protesta se i tagli colpiscono indiscriminatamente, ma anche senso del ridicolo a rischio oltrepassamento se la battaglia per fondi più consistenti si ammantasse dei panni nobili di una battaglia che la civiltà indignata avrebbe il dovere di combattere contro la barbarie dei tagliatori. Un po' più di autoironia sarebbe oltremodo benvenuta. In fondo anche l'ironia è una sopraffina arma culturale, per di più gratuita, senza bisogno di aiuti di Stato. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Pierluigi Battista «Occupazione del Teatro Valle. La sinistra sia un po' autocritica» dal Corriere della Sera del 7 luglio. La metà delle donne più ricche del mondo è di nazionalità cinese e per dimostrare di aver raggiunto il successo, le donne cinesi si circondano di status symbol appartenenti all'universo maschile. L'attrice Zhang Ziyi adora girare in Ferrari. Wang Fei, la cantante che in Cina chiamano la nostra Madonna, brucia tutti ai semafori con la sua Audi A8. L'imprenditrice pechinese Lili Liu non si accontenta di una Porsche Carrera da 1,2 milioni di yuan, 150.000 euro. Già pensa di far posto nel suo garage a una Aston Martin. Alle donne cinesi piace correre. Alle donne cinesi piace sfoggiare la potenza e il lusso che emanano le marche più celebri d'Occidente. Alle donne cinesi piace acquistare oggetti che, nel nostro mondo, sembrano più legati agli ideali maschili. Le auto potenti sono sempre state considerate una passione esclusiva del sesso forte, spiega Lili Liu, 44 anni. Le donne che come me le comprano rivendicano semplicemente pari opportunità. Le cifre parlano chiaro. Come in un rovesciamento di ruoli, paradossale in una società ancora fortemente maschilista, l'universo femminile, a giudicare da un'indagine di mercato effettuata da McKinsey, stanno incrementando l'acquisto di beni lussuosi su una scala doppia rispetto agli uomini. Considerato che un terzo degli 875.000 milionari della Repubblica Popolare sono donne, i numeri sono sufficienti per spingere le grandi marche a riconsiderare le loro strategie. Secondo Urun Report, società di statistica, la metà esatta delle donne più ricche al mondo sono di nazionalità cinese. I loro interessi non si limitano alle quattro ruote. Altri beni che attraggono il gentil sesso sono, per esempio, i tradizionali gioielli e il meno tradizionale whisky. Le donne cinesi sono ambiziose, per questo comprano oggetti che conferiscono uno status sociale, spiega Tom Doctoroff, direttore dell'agenzia di pubblicità JWT. Così la Maserati conferma che il 30% dei modelli venduti nel Celeste Impero vanno a esponenti del gentil sesso, contro il 2-5% in Europa o Stati Uniti, una differenza che non può passare inosservata. La Maserati ha già studiato nuovi colori più adatti alle sue clienti orientali, come il rosso acceso e il bordeaux. E gli uomini? Sorpresa, come dimostrano foto e filmati che ritraggono i leader stessi della nazione, a partire da Hu Jintao, Wen Jiabao e perfino Jiang Zemin, tutti con capigliature perfettamente corvine. I maschi sono molto attenti all'immagine. Perciò vanno fortissimo le tinture per capelli. Non è trendy mostrarsi ingrigiti, ma agli uomini piace anche curarsi con creme antirughe o regalarsi borse da passeggio e accessori, che certo avrebbero un mercato più limitato in Europa o negli Stati Uniti. I cinesi, racconta il Financial Times la commessa di un negozio Prada a Shanghai, hanno bisogno di portare con sé molto denaro contante e diversi oggetti. Per questo acquistano le nostre borse. I numeri aiutano a capire il fenomeno. Il mercato delle borse e accessori vale in Cina 1,7 miliardi di dollari. Il 45% è esclusiva del sesso forte, quando la media in Occidente non supera il 15%. Certo, un fenomeno così appariscente non poteva passare inosservato. Lo scrittore conservatore Ye Chu-hua ha definito questa passione per il lusso il nuovo oppio spirituale del popolo. In altri tempi, il solo pensare a un oggetto frivolo sarebbe costato caro. Figuriamoci perseguire la parità tra i sessi con mezzi tanto veniali. Oggi le donne fanno gli stessi lavori degli uomini, conclude Sara Yao, 36 anni, imprenditrice proprietaria di due Maserati e una Fiat 500. Lavoriamo duro e meritiamo pure di ricompensarci in qualche modo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Salom, Supercar e Whisky, i must delle ricche cinesi, dal Corriere della Sera del 6 luglio. Anche se in India è un reato svelare ai genitori il sesso del nascituro, quasi tutti gli ospedali infrangono la legge per permettere l'aborto selettivo ed eliminare le bambine. E non ci dica il sesso, mi raccomando. Vogliamo scoprirlo quando nascerà. La gravidanza era a buon punto. Ci trovavamo in uno dei migliori ospedali privati di New Delhi e la ginecologa che si apprestava a fare un'ecografia alla mia compagna ci stava guardando male. Non capivamo se fosse più stupita da una richiesta tanto inusuale o più offesa dal fatto che avessimo sollevato l'argomento. Svelare il sesso di un nascituro, ci spiegò Severa, è un reato penale. In questo ospedale non facciamo queste cose. Dubbio fugato, era offesa. Eppure, a ben vedere, la nostra richiesta non era poi così ingenua, perché è vero che la legge indiana proibisce di rivelare ai genitori il sesso dei nascituri, ma è altrettanto vero che pochi ospedali sembrano curarsi del divieto e che di conseguenza le discriminazioni tra i futuri figli maschi e le future figlie femmine non accennano a diminuire. Anzi, a farne le spese, caso mai qualcuno avesse ancora dei dubbi, sono i feti femminili. L'unica differenza è che una volta la selezione avveniva dopo la nascita, allocando maggiori risorse verso l'alimentazione, l'educazione e le cure mediche dei figli maschi. Oggi invece il problema viene risolto qualche mese dopo il concepimento, con un cosiddetto aborto selettivo, un business che assieme a quello delle ecografie mirate a stabilire illegalmente il sesso dei nascituri vale circa 100 milioni di dollari all'anno. La conferma della portata del fenomeno è venuta dai dati del censimento iniziato lo scorso anno. La rivista scientifica The Lancet li ha studiati e raffrontati con quelli del passato, giungendo alla conclusione che la crescente diffusione degli apparecchi per le ecografie sta avendo effetti devastanti. Se nel 2001 in India, nella fascia d'età tra gli 0 e i 6 anni, c'erano 927 femmine ogni 1000 maschi, oggi quel numero è sceso a 915, il livello più basso dal 1961, il primo anno in cui sono stati raccolti questi dati. Un andamento che fa stimare che tra il 1980 e il 2010 in India non siano venute al mondo tra i 4 e i 12 milioni di bambine. Nonostante le donne siano sempre più rappresentate nel mondo del lavoro, spesso in posizioni che in Italia restano feudi esclusivamente dei maschi, nonostante il politico più potente e popolare del paese, Sonia Gandhi, sia una donna, e nonostante due decenni di boom economico abbiano migliorato le condizioni di vita di decine di milioni di famiglie. Il paradosso, anzi, è che proprio istruzione e benessere sembrano aggravare la situazione. Più una famiglia è abbiente e con più facilità ha accesso alle tecnologie che consentono di stabilire in anticipo il sesso di un nascituro e di lì a 20-25 anni risparmiare un sacco di quattrini in dote. Non è un caso che i due stati indiani con la child sex ratio più sballata, Punjab e Haryana, siano tutt'altro che poveri. Ma il problema non per questo rimane circoscritto. Tocca ormai sia gli indiani che vivono all'estero che i residenti del Kerala, un piccolo stato nel sud dell'India che storicamente ha indicatori sociali molto più favorevoli del resto del paese. Secondo i dati elaborati da The Lancet, il fenomeno è diffuso soprattutto in quelle famiglie dove c'è già una bambina. In questi nuclei, lo scorso anno, la child sex ratio dei secondogeniti è scesa all'incredibile cifra di 836 femmine ogni 1000 maschi, con il risultato di contribuire, anche per gli anni a venire, a minare in profondità il tessuto sociale di un paese che già oggi ha una popolazione maschile che supera di ben 32 milioni, quella femminile. Uno squilibrio che da anni alimenta una vera e propria tratta delle donne, che ha per protagoniste spose bambine, vendute e trasportate come bestiame da un capo all'altro del paese, per tappare i buchi demografici provocati da uno degli effetti collaterali più sinistri del boom economico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Masciaga, Peccato che sia femmina, dal numero di giugno-luglio del magazine IL Intelligence in Lifestyle.